Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Da lunedì inizierà il confronto con tutte le parti migliori del paese, parti produttive, parti sociali, tantissimi stakeholders, e inizieremo, mi sembra doveroso, anche omaggiare il lavoro che hanno fatto i componenti della Commissione Colao. Inizieremo proprio con Colao, che ci riferirà il senso, la filosofia dell'iniziativa. Insomma, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, avete sentito Conte, molto carico, annuncia che nei prossimi giorni si riuniranno le migliori energie e le migliori menti del paese per far ripartire l'Italia. Quindi tra il piano Colao, di cui abbiamo parlato molto in questi giorni, e gli stati generali dell'economia che dovrebbero partire venerdì, ma senza centrodestra, seppure l'opposizione sia stata invitata. Quindi approfondiremo molto i temi della politica, e poi naturalmente ci sono tanti altri argomenti, per esempio sempre da un punto di vista politico, ma anche poi di geopolitica, riparte la polemica sul caso Regeni, il giovane ricercatore friulano torturato barbaramente, ucciso al Cairo, per la vendita, anche se il ministro Di Maio degli Esteri ha detto che ancora non è stata completata, di due fregate, quindi due navi da guerra all'Egitto. Poi torneremo anche sull'inchiesta in corso a Bergamo per chiarire di chi sono le responsabilità per la mancata chiusura della zona rossa di Alzano Lombardo e Nembro, perché venerdì poi saranno ascoltati, come persone informate di fatti, anche Conte, presidente del Consiglio, la ministra Lamorgese e il ministro Speranza. Bene, vi ho già anticipato qualcosa, ma tra poco sintesi della giornata, poi gli ospiti per approfondire alcuni temi in particolare. Per i vostri messaggi, lo sapete sempre, i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure li potete scrivere via WhatsApp al 349-238-6666. Poi c'è il Twitter di Effetto Notte durante la diretta, altrimenti l'altro Twitter è Roby con la Y, linetta bassa, Giordano. I dati sul coronavirus in Italia sono 202 nuovi casi di contagio, 71 i morti, continuano a calare le persone in terapia intensiva. La mancata zona rossa ad Alzano e Nembro, venerdì PM di Bergamo sentiranno Conte, la ministra Lamorgese e il ministro Speranza. La ripartenza dopo il lockdown, da venerdì gli stati generali dell'economia, il nostro lavoro è apprezzato anche dall'Unione Europea, dice Conte, ma il centrodestra fa sapere che non ci sarà a Villa Pamphilj. Recovery Fund, la Danimarca apre per l'aiuto ai paesi più colpiti, restare uniti è il punto di partenza. Caso Regeni, tensione nella maggioranza di governo per la vendita all'Egitto di due fregate. Poi la strage delle donne, ennesimo femminicidio, questa volta nel torinese. E per lo sport, annullato il Gran Premio di motociclismo del Mugello. Partiamo quindi come sempre dai dati della protezione civile sul coronavirus in Italia. Sono nelle ultime 24 ore 71 le vittime nel nostro paese. Il numero totale dei morti sale quindi dall'inizio della pandemia a 34.114 in Italia. Dai dati della protezione civile emerge che ci sono 10 regioni senza vittime: Veneto, Marche, Trentino Alto Adige, Sicilia, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. E sono saliti a 169.939 finora i guariti e i dimessi per il coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.293. E il ministro della Salute Roberto Speranza, nell'informativa al Senato oggi, ha detto: le misure adottate sono state sempre accompagnate da scelte difficilissime, ma ci hanno permesso di piegare la curva del contagio e salvare la vita a migliaia di persone. Oggi, ha detto Speranza, possiamo dire che non c'era alternativa alle strette misure adottate. Poi ha aggiunto: c'è una costante proporzionalità delle misure all'andamento della curva del contagio. Oggi non dobbiamo cambiare strada e tutti dobbiamo avere misure nelle nostre affermazioni e mai dare messaggi contraddittori ai cittadini. Una seconda ondata, ha detto Speranza, non è certa ma possibile, e quindi bisognerà essere pronti. E poi ha parlato anche della scuola. Il governo è inoltre al lavoro per garantire la riapertura in sicurezza assoluta di tutte le scuole a partire dal mese di settembre. La mia opinione è che questa riapertura rappresenti la priorità assoluta su cui concentrare tutta la nostra attenzione e tutte le nostre risorse. Il diritto all'istruzione dei nostri figli, garantito dalla Carta Costituzionale, è il fattore essenziale per il futuro del nostro Paese. E vi ricordate, cioè, abbiamo parlato ieri della nuova polemica suscitata dalle affermazioni dell'OMS sugli asintomatici, che ha detto ieri una sua responsabile, gli asintomatici raramente possono contagiare. Oggi l'OMS è ritornato un po' su questa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha detto che dall'inizio di febbraio abbiamo detto che le persone asintomatiche possono trasmettere il Covid-19, ma che abbiamo bisogno di ulteriori ricerche per stabilire la misura di tale trasmissione. Le ricerche continuano, ha detto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, nella consueta conferenza stampa sulla pandemia, menzionando il dibattito appunto scaturito dalle affermazioni dei giorni scorsi dell'OMS sul tema. Anche il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Locatelli, ha detto che i dati mostrano che gli asintomatici trasmettono il virus. Ieri, vi ricordate, qui a Effettonote era ospite il professor Bassetti, dell'infettivologo del San Martino di Genova. Sentiamo. Secondo me, quando si danno delle informazioni così importanti e così pesanti per le ripercussioni che hanno evidentemente su un paese, bisogna darle nei momenti in cui ci sono dei dati certi. Non credo che sia possibile dire potrebbe, forse, quando si danno evidentemente dei comunicati su un argomento così delicato, bisogna esserne certi, anche perché proprio l'OMS poco tempo prima aveva detto esattamente il contrario. Occorre, a mio parere, tanta cautela, un argomento sul quale noi in Italia stiamo facendo tantissimo, perché non dimentichiamoci che tutte le misure che noi stiamo applicando sono fondamentalmente le misure per evitare i contagi dagli asintomatici, e i tamponi vengono evidentemente fatti proprio per quello. A Bergamo la Procura ascolterà venerdì anche i vertici del governo, a partire dal Presidente del Consiglio Conte, dopo che sono stati ascoltati nei giorni scorsi i vertici invece della Regione Lombardia. Nelle mani dei PM anche le prime denunce dei familiari delle vittime della zona della Bergamasca, della Valseriana, di Alzano, Lombardo e Nembro, che non furono chiuse, non furono praticamente fatte zona rossa. Al centro dell'inchiesta appunto la mancata zona rossa, la mancata chiusura di quelle zone, e ci sarà spazio nel corso di questa puntata per tornare su questo argomento. Intanto riaprono lentamente le frontiere interne all'Unione Europea, per le altre destinazioni ci sarà da aspettare ancora. A poco le frontiere interne della UE riaprono, consentendo il libero passaggio di cittadini e turisti. Se da lunedì prossimo, come noto, decade il tanto deprecato limite di accesso alla Grecia per gli italiani, la novità è che da martedì 16 finisce anche quello dell'Austria, che invece terrà ancora la guardia alta contro Svezia, Gran Bretagna, Portogallo e Spagna. Quanto all'Italia, invece, Vienna chiede cautela solo a chi intende raggiungere la Lombardia. Se ne felicita il ministro degli esteri Di Maio, che ringrazia l'Austria per una decisione che la allinea a Francia, Svizzera e Germania. Berlino ha infatti detto basta ai controlli alle frontiere tedesche dal 16 giugno e finisce anche l'obbligo di quarantena per chi entra nel paese. Dal 13 di giugno riapre la Polonia, che lamenta però un trattamento non reciproco dai vicini. Per le frontiere esterne allo spazio Schengen ci sarà da aspettare, ha sottolineato però l'alto rappresentante europeo Borrell. Le revoche saranno graduali e parziali a partire dal 1 luglio. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Stati generali dell'economia, arriva il no oggi dell'opposizione al governo Conte. Partono in salita gli stati generali dell'economia voluti dal Premier Conte. Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia fanno sapere che non parteciperanno. L'indicazione è emersa nel corso di un vertice tra Salvini, Meloni e Tajani. I tre spiegano di essere pronti a confrontarsi con il governo in qualsiasi momento, ma soltanto in sedi istituzionali. Conte nel frattempo continua a lavorare all'organizzazione dell'evento, che nelle intenzioni del governo dovrà servire a mettere le basi del piano per il rilancio del paese. Dopo i singoli ministri, nelle prossime ore il premier vedrà anche i capigruppo della maggioranza. Secondo il programma, venerdì pomeriggio dovevano essere proprio le delegazioni del centrodestra ad aprire gli stati generali, che andranno avanti per 10 giorni a Villa Panfili. Sabato sarà la giornata degli ospiti internazionali, fra i quali la presidente della Commissione europea von der Leyen. Lunedì sarà invece la volta delle parti sociali. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E tra poco torneremo anche su questo tema e poi passiamo ai provvedimenti invece economici dell'Unione Europea per rilanciare l'economia. C'è un'apertura da parte della Danimarca. Il nostro compito, ha detto la prima ministra danese Frederiksen, il nostro compito non è mettere il veto ma trovare una soluzione. Il governo è a favore del fondo per aiutare i paesi più colpiti dalla pandemia. Lo ha detto durante un'interrogazione al suo Parlamento la prima ministra danese. Dobbiamo restare uniti in Unione Europea e questo è il punto di partenza del governo per questi negoziati, aggiunto. Poi Paolo Gentiloni, parlando al Delphi Economic Forum, si dice ottimista, dice stiamo avendo discussioni sulla grandezza, sul rapporto tra sovvenzioni e prestiti, sulla tempistica, sulla chiave di distribuzione, spiega Gentiloni, che però chiede agli Stati di non ridimensionare la cifra di 750 miliardi proposta dalla Commissione. E poi si torna a parlare del caso Regeni e anche scaturisce una polemica politica dalla vendita da parte dell'Italia di due fregate, due navi da guerra all'Egitto. La procedura di autorizzazione alla conclusione della trattativa per la fornitura delle due fregate Fincantieri all'Egitto è tuttora in corso, ha precisato il ministro degli esteri Di Maio alla Camera, sottolineando che resta ferma, dice, la nostra incessante richiesta di progressi significativi nelle indagini sul caso del barbaro omicidio di Giulio Regeni. Ne parleremo con un esperto di geopolitica e dei rapporti Italia-Egitto. L'ennesimo femminicidio è durata due ore, la fuga di Nicola Cirillo, l'uomo di 57 anni, si è costituito ai carabinieri che avevano circondato con posti di blocco tutta la zona, sorvolata anche con un elicottero, dopo che l'uomo ha ucciso l'ex moglie a Volvera nel torinese, Cristina Messina, 58 anni, a cui ha sparato sul balcone di un appartamento al primo piano, appunto, di Volvera nel torinese. In casa c'era anche la figlia, 29 anni, ricoverata in gravi condizioni alle Molinette di Torino dopo essere stata colpita al torace da due colpi di pistola. Secondo i primi accertamenti, marito e moglie erano divorziati da 4 anni. E sempre per quanto riguarda l'OMS, oggi ha detto: per definizione un nuovo virus vuol dire che impariamo strada facendo, abbiamo imparato molto ma c'è ancora molto che non sappiamo, ha detto sempre il direttore generale. Per quanto riguarda gli Stati Uniti e tutto quello che è successo dopo l'omicidio di George Floyd, l'afroamericano di 46 anni, Donald Trump ha detto cose da pazzi, ha reagito così alle proposte di riforma della polizia. L'agenda della sinistra radicale non passerà, ha twittato il presidente americano proprio mentre il fratello di George Floyd stava concludendo il suo intervento in diretta TV davanti alla Commissione Giustizia della Camera. Prosegue intanto la battaglia iconoclastica contro le statue di personaggi del passato visti oggi sotto una luce diversa. Una statua di Cristoforo Colombo demolita e gettata in un lago a Richmond, in Virginia, perché ritenuta simbolo d'oppressione razziale. Sul piedistallo vuoto un cartello con la scritta «Colombo rappresenta il genocidio». In Florida, Jacksonville, rimosso il basamento che reggeva la statua in onore dei soldati confederati. In Belgio, vandalizzate le statue di Leopoldo II, controverso re del passato colonialista. A Londra, rimossa la statua del noto mercante di schiavi Robert Milligan. A Bristol, vandalizzata con della vernice rossa, infine gettata nelle acque del fiume Avon la statua di Edward Colston, mercante di schiavi del XVII secolo. Il monumento di Londra, dedicato a Winston Churchill, imbrattato con la scritta «Era un razzista». Non solo negli Stati Uniti, continua così la guerra alle statue razziste che sull'onda lunga delle proteste di Black Lives Matter arriva fino ai militanti radicali e iconoclasti denominati «Topple the Racist», «Abbatti il razzista». E sono tante le statue ritenute indesiderabili, quando non insopportabili, abbattute per le più svariate ragioni. Celebre quella del tiranno sconfitto Saddam Hussein, smantellata Baghdad nel 2003, per non parlare del cimitero delle sculture dell'era comunista vicino a Praga. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E il Dipartimento di Polizia di Minneapolis, dove è stato ucciso George Floyd da, appunto, i quattro agenti incriminati almeno per l'uccisione, si ritirerà dai negoziati contrattuali, il Dipartimento di Polizia, con il sindacato stesso della polizia, spesso visto come troppo corporativo. Lo ha annunciato il capo dello stesso dipartimento, definendolo il primo passo per una riforma vera dopo la morte dell'afroamericano. Il dirigente di polizia ha spiegato che intende rivedere il contratto per impedire abusi e violenze e sanzionare più tempestivamente gli agenti. E poi parliamo dell'allarme dei cardiologi, questa è la rivista European Journal of Clinical Nutrition, un articolo italiano sul cosiddetto effetto pandemia, che lancia questo allarme per l'appunto, dicendo che i cardiologi si preparino ad affrontare il probabile aumento dell'obesità che seguirà la pandemia e gli stati si preparino a intraprendere un'obbligatoria azione globale a sostegno di una dieta sana, di un'attività fisica per incoraggiare le persone a tornare a corretti stili di vita. Queste appunto le conclusioni di questo articolo italiano sul cosiddetto effetto pandemia, condotto da ricercatori dell'Università di Modena e Reggio Emilia, visto che tanti hanno detto insomma che con il lockdown, dovendo stare chiusi in casa, i pasti sono diventati tutti, per le famiglie almeno dove c'era armonia, molto conviviali e quindi ci si è dati molto alla cucina e al mangiare. Per chiudere, lo sport per l'appunto, cancellato però sport diciamo agonistico, cancellato il Gran Premio d'Italia di motociclismo al Mugello, e poi per quanto riguarda il calcio maschile, Coppa Italia senza supplementari, si andrà subito ai rigori, ne parleremo poi nel corso di questa puntata. Direi, vedo però adesso una notizia che riguarda migranti in Tunisia, un naufragio, la strage delle donne, dei 34 corpi recuperati dopo il naufragio di lunedì, 22 sono di donne subsahariane e ci sono anche 3 bambini, e poi le ripartenze verso l'Italia, leggo, sono aumentate del 156% nel 2020. A tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Moltissime le notizie che vi racconto ogni sera, vi sintetizzo nella prima parte della puntata, che poi approfondisco alcune di queste con gli ospiti, che non potete perdere, in modo che un giorno non potrete dire io questa non la sapevo, a proposito di una notizia importante. E infatti Damiano da Roma scrive: stasera Roberta non potrò seguirti in diretta, devo mettere il piccolo Nanna, ti sentirò in registrata, cioè in podcast, quindi imparate anche questa possibilità, questa funzione di ascoltare, se lo siete diciamo così malaguratamente persa la puntata, ascoltarvela poi in podcast, basta che andiate sul sito di Radio 24, mi raccomando, ditelo anche amici e conoscenti, amori e parenti. Adesso ci soffermiamo come primo tema sulla politica italiana. Da lunedì inizierà il confronto con tutte le parti migliori del paese, parti produttive, parti sociali, tantissimi stakeholders, e inizieremo, mi sembra doveroso, anche omaggiare il lavoro che hanno fatto i componenti della Commissione Colao. Inizieremo proprio con Colao, che ci riferirà il senso, la filosofia dell'iniziativa. Oh, avete sentito Conte, molto diciamo carico, euforico, perché politicamente questa è stata sicuramente, ed è ancora in corso, una politica, una settimana molto intensa, nella quale si avverte un gran pullulare di proposte di ripartenza per il nostro paese, almeno stando al piano per la fase 3 di Vittorio Colao, capo della task force incaricato da tempo dal governo Conte di fare un piano appunto per la ripartenza. Ne abbiamo parlato molto in questi giorni, cercando un po' di scandagliare gli argomenti principali, e poi quindi da una parte il piano Colao e poi gli stati generali dell'economia annunciati giorni fa da Conte e che inizieranno venerdì a Villa Panfili a Roma. Non so se la nostra Barbara Fiammeri sia stata invitata. Sei stata invitata tu, Barbara? Beh, naturalmente no, non ecco, sono naturalmente una persona importante io. lo sei, fondamentale, soprattutto per effetto notte. Comunque, a me sembra che ci sia un proliferare di brainstorming, tanto per stare col linguaggio anglofono di Conte, quindi di tempesta di cervelli, Barbara. Lui ha detto i stakeholders, ci saranno i stakeholders, quelli sono le menti brillanti del nostro paese, le energie migliori, sì? Speriamo che tutti questi cervelli non vadano in fumo, insomma, perché dici troppo carburare, alla fine si surriscalda la situazione. Sì. Dici. Comunque Conte ha detto: prepariamo un piano concreto con i ministri, stiamo lavorando intensamente con molta soddisfazione, siamo apprezzati anche a livello europeo. Farei sentire in effetti Conte che dice: stiamo lavorando intensamente e l'Europa approva. Ovviamente noi ministri stiamo adesso in queste ore, in questi giorni lavorando, devo dire con molta soddisfazione, stiamo mettendo su un piano, perché ovviamente vogliamo confrontarci con le migliori forze del paese, ma portando anche già dei progetti, delle idee molto concrete, sarà un confronto di lavoro ma molto concreto. E questa sera, domani mattina, avremo anche un confronto con tutti i gruppi della maggioranza, delle forze che sostengono il governo, perché voglio che questo lavoro, questo progetto che preliminarmente presentiamo sia quanto più condiviso possibile. a livello europeo hanno molto apprezzato questa nostra predisposizione già a elaborare questo piano, il fatto che ci siamo messi subito al lavoro per potenziare gli investimenti, per elaborare progetti, riforme strutturali che fanno bene al paese, che ci faranno correre. Ci faranno correre vari termini usati, confronto e poi concreto e piano, soprattutto la concretezza. Barbara, tu ce la vedi in questi stati generali dell'economia, dai quali però si è subito ritirato il centrodestra, che pure era stato invitato, però oggi nel vertice i leader del centrodestra, Salvini, Meloni e Tajani, hanno detto che compattamente loro non parteciperanno, perché per esempio Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ha detto per noi gli stati generali sono in Parlamento. Però Conte ha detto li convincerò che Villa Pamphili è un luogo istituzionale. Ce l'abbiamo anche questo passaggio di Conte che parla di Villa Pamphili. Mi sembra superato dal fatto che non vogliano venire. Si convinceranno che è una sede istituzionale e poi ne parliamo. Quindi vogliono mancare a questo brainstorming generale delle menti più brillanti del paese, Barbara? Il centrodestra? Ma sì, perché... Devo dire che è abbastanza comprensibile, nel senso che è stata una cosa un po' repentina da parte del Presidente del Consiglio, tanto che nei giorni scorsi abbiamo raccontato, come dire, che prima ancora del no dell'opposizione che è arrivato oggi, del centrodestra, insomma, c'erano molte perplessità, per esempio in casa PD, no? Che adesso sembrano superate, ma insomma, cioè, Del Rio era stato il primo degli stati anche, generali, sì. A parte anche in questo caso l'espressione degli stati generali non porta particolarmente bene, però comunque in così poco tempo, e soprattutto io ricordo con un decreto rilancio su cui sono più di migliaia di emendamenti. Perché ricordo questo? Perché insomma ci sono diverse decine di miliardi da utilizzare, sappiamo ancora che ci sono difficoltà sui miliardi già stanziati e che non sono arrivate nelle tasche degli italiani, cioè allora qui più che... Allora qui la concretezza di cui parla Conte dice un po'... Zoppica. No, io dico che invece di fare, cioè invece di tanti discorsi, di task force, di spremerci le meningi, ci sono già decine di miliardi sul tavolo. Ancora una volta l'Italia, dico ancora una volta perché anche in passato noi abbiamo dimostrato spesso di pretendere denari, chiedere denari, ma poi quando con i denari devi fare delle cose concrete che servano alla generalità delle persone, non a soddisfare questo o quella lobby piuttosto che questo o quell'interesse personale. Non siamo stati particolarmente brillanti. Ecco, io spero che questi stati generali non siano l'ennesima, come dire, uso un'espressione che ha usato il centrodestra, passerella per il premier, insomma, ma l'ha usata anche nei giorni scorsi, l'hanno usata anche esponenti della maggioranza. Non ci servono le passerelle, non servono gli show. Ma secondo te invece, Barbara, non può essere che Conte, in un momento così cruciale, dove appunto, come è stato detto in questi giorni, si disegna il destino del paese, voglia la più grande, maggiore possibile condivisione, perché dice siamo tutti insieme, che capiamo che cosa fare per rilanciare il paese? Ma non so se questa è la modalità più corretta, cioè voglio dire, quello che intanto ricordo un piccolo aspetto che non è secondario, cioè Conte quando annuncia nella conferenza stampa questi stati generali, di questi stati generali non aveva informato nessuno della sua maggioranza, tant'è che cascano dal pero Gualtieri, Zingaretti, cioè nessuno sapeva niente. Diciamo, c'è stato un pochino di malcontento. E anche per Di Maio. Sì. Quindi insomma, organizzare degli stati generali, se un governo organizza, ci si immagina un lavoro preparatorio, insomma, importante dietro. Evidentemente questo lavoro preparatorio, cioè, non lo fa in pochi giorni. Pochi giorni organizziamo un convegno, insomma, ecco, non mi sembra il momento, con i problemi che ci sono, con le discussioni che ci sono in atto all'interno dello stesso esecutivo, cioè su tanti temi. Cioè, io mi chiedo che cosa dire. A me non mi interessa cosa dirà la Confindustria o cosa diranno i sindacati o cosa dirà questo o quell'economista, sinceramente, in questo momento. Mi interesserebbe sapere invece cosa vuole fare il governo, dalle autostrade all'Alitalia, a come arriverà la cassa integrazione, se ci sarà un'ulteriore proroga, se ci sarà un'ulteriore proroga per quanto riguarda i versamenti delle tasse. Io penso che le persone, e soprattutto chi è nel mondo, chi investe, chi deve produrre, è queste le cose che vuole sapere. Vuole sapere, vuole sapere di qui, non dico a un anno, due anni, ecco, ma diciamo nei prossimi sei mesi, che cosa mi devo aspettare dal governo? Cosa farà per me il governo in modo che io mi possa muovere di conseguenza? In questo momento viviamo nella più totale incertezza. Faccio l'esempio della cassa integrazione, non perché io sia particolarmente fissata, ma insomma non sappiamo neanche se ci sarà una ulteriore proroga. Allora, anche qui è difficile poi anche per le aziende riuscire a come dire, programmare, gestire anche le risorse che hanno disponibili, anche pensare a futuri investimenti se non hai un quadro di certezze anche dal punto di vista fiscale, cosa che non si ha. Quindi non a caso faccio notare che il piano Colao in alcune cose riprende degli argomenti portati avanti anche dall'opposizione, infatti, proprio dalla stessa opposizione. Ieri dicevo, Barbara, proprio nel commentarlo, sembra quasi che il piano Colao piaccia più al centrodestra che non al centro-sinistra, comunque al governo. Tra PD e Movimento 5 Stelle c'erano state varie critiche, mentre Salvini e anche Gasparri di Forza Italia, ieri e ancora oggi Salvini è tornato a parlarne abbastanza positivamente, anzi ha ringraziato Colao per questo piano, no? Sembra un po' un sì, paradosso. Perché sostengono in parte, è sicuramente vero che Colao ha preso degli emendamenti di Forza Italia, Fratelli d'Italia, della Lega e li ha fatti, cioè li ha inseriti tra le proposte, no? Soprattutto quelli dal punto di vista fiscale. Allora è chiaro che, come dire, in questi mesi abbiamo visto che Colao prima sembrava che dovesse essere l'uomo che insomma ci illustrava, ci indicava la luce e la via. La via, sì. Poi insomma Conte l'ha messo un po' da parte, adesso l'ha ripescato e lo ha invitato agli Stati Generali. Però in un primo momento anche lui era stato un po' freddino, dicendo sì, ma è un contributo come un altro, però oggi invece ha detto proprio ha fatto sì, un buon lavoro. Sentiamo, non si capisce, ma questo è significativo. Perché voglio dire, Colao era ed è alla guida di una task force voluta dal governo. Certo, sentiamo oggi cosa ha detto, però. C'è un gruppo di studiosi che si è riunito per conto proprio. Barbara, sentiamo cosa ha detto oggi Conte. È un buon lavoro, visto che ha ricevuto, come normale che sia, varie critiche. Ci stanno. Ecco, ha detto un buon lavoro. Cioè, sempre un po' tiepido, però è un buon lavoro. Però capisci, cioè, quello che stavo dicendo è, allora, questa task force, come altre, è stata voluta dal governo, cioè lavora per il governo, non è che sono degli economisti o dei manager che hanno fatto un gruppo di lavoro per conto loro e offrono un contributo, no, sono stati chiamati dal governo e il governo gli ha detto, sentite, dateci una mano, cioè, illustrateci quali sono delle proposte concrete con cui possiamo far uscire il paese dalla crisi. Dopodiché ti presentano, anzi già prima che ti presentano le proposte, tu fai capire che non è che ti aspetti granché e sei molto interessato. Te le presentano appunto e dici sarà uno dei tanti contributi, ma come uno dei tanti contributi? Ci hai messo decine di personaggi, diciamo così, a lavorare. Uno si aspetta che quelli siano il cuore del... Allora, se non è questo il cuore, non è il piano Colao, bene, abbiamo capito con te, non è il piano Colao, qual è il cuore di questi Stati Generali? Qual è la proposta del governo? Allora, intanto ha annunciato Conte che sabato, già lo anticipavo ieri, ci sarà il contesto internazionale, perché ci saranno la Presidente della BCE Lagarde, in videoconferenza collegata naturalmente, la Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Sentiamo questo passaggio. Sabato c'è una giornata, come dire, una sessione poi inaugurale dedicata al contesto internazionale, quindi avremo tanti ospiti d'eccezione, tanti rappresentanti delle autorità internazionali con cui ci confronteremo su quello che è il trend economico, su quello che è l'impatto dello shock nell'economia globale, europea e anche nazionale. Quindi la grandeur, in grande insomma, è pesante, anche se in tempi brevi diciamo ci sono ospiti di una certa rilevanza, Barbara. Vediamo qualche messaggio, qualcuno che è critico con la destra, che dice per esempio, diciamo la verità, per la destra italiana partecipare ai cosiddetti stati generali è un esercizio di democrazia troppo esagerato, dice questo ascoltatore, mentre Fabio, purtroppo vedo un tantino di confusione, scrive, ritengo invece che per una giusta, graduale e duratura ripartenza ci vorrebbero più certezze, forse un passo alla volta sarebbe meglio che pretendere di correre da subito, tanta gente sta soffrendo ancora, la ripartenza dovrebbe partire da loro, gli aiuti a pioggia non hanno dato frutti ma hanno sempre alimentato, dice le furbate. Gabriele invece scrive: dopo le tax force e gli stati generali, quale sarà la prossima pagliacciata, o vanno direttamente alla Bastiglia? Insomma, mente vedo il piano Colao, dice Francesco, è un piano realistico e perciò poco apprezzato dagli incapaci al governo, non sono stati neanche pagati. Insomma, tante opinioni diverse, stiamo a vedere venerdì come parte questi stati generali, come partono, Barbara. Sì, anche perché venerdì devono andare i partiti di opposizione. I partiti di opposizione non ci vanno, con che la riempiamo la scaletta venerdì? Punto interrogativo. Con che la riempiamo? Così ti rispondo. Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella. Ti piace ballare il liscio, il lissio si dice, Barbara? Perché sappi che c'è malumore. Mi piace ballare, sì, ma non sono capace. Perché c'è malumore in Romagna, sia alla Macarena, no al lissio e al valzer. È uno degli effetti delle linee guida sulla riapertura delle sale da ballo approvata dalle regioni. Gravissimo. Che impone il distanziamento, quindi non puoi ballare cic tu cic. Io credo che su queste linee guida comunque anche lì un minimo di come dire, di supplemento di riflessione andrebbe fatto, perché ci sono un po' delle assurdità. Però questa la puoi ballare, Barbara, se tu volessi. Se tu... Balla tu quello, allegria, Macarena, che tu quello fa l'allegria. Ecco, la Macarena sì, perché si sta tutti distanti, ognuno balla un po' per conto proprio. Ho capito. Ecco, capito, quindi, mi raccomando. Quindi scusami, sì, Roberta, ma dimmi, quei lenti, vabbè che non vanno più di moda, tipo una rotonda sul mare di per buon gusto, sei rimasta... niente, cioè, finita. No, tu volevo ballire, romantica, basta. Niente, adesso... degli strusciamenti, la mattonella, roba vecchia, finito via. Tutto. Oltre, si va oltre. Che tristezza. Sarà la fase 24, non lo so, qualche fase sarà. Grazie Barbara Fiammeri. Grazie a voi, buonasera. Ciao cara Barbara. E buon ballo, qui ci fermiamo brevemente, poi continuiamo a ballare tra pochissimo. 349-238-6666 per i vostri messaggi via WhatsApp oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, ormai lo sapete, c'è bisogno di dirlo, siete al posto giusto, nel momento giusto, perché dove altro potete trovare un quadro così chiaro e esauriente a fine giornata di tutto quello che è più importante da sapere dall'Italia e dall'estero. Roberta Giordano con voi, come sempre, a raccontarvi le notizie principali e approfondirle insieme agli ospiti. Per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666. Dice questo ascoltatore, vediamo se lo ritrovo, dava anche la traduzione. C'è Federico che dice: ho lo stesso dubbio di Barbara Fiammeri, con la quale abbiamo commentato i fatti della politica fino a poco fa, che le avevo detto c'è tutto un brainstorming, questa tempesta di cervelli tra piano Colao e stati generali. Lei aveva detto: speriamo che non fumino questi cervelli, e l'ascoltatore fa questa battuta, anche perché da brainstorming a brain burning è un attimo, cioè da brainstorming a brain brucianti, cervelli brucianti è un attimo. E poi qualcun altro che, appunto, a proposito di termini inglesi, mi aveva detto dal dizionario, dall'Oxford Oxford Dictionary, non lo ritrovo, lo ritroverò tra poco, la traduzione di stakeholders, che è questo termine usato da Conte. Adesso però torniamo a parlare dell'inchiesta della Procura di Bergamo sulla mancata zona rossa di due paesi della Bergamasca, Alzano Lombardo e Nembro, una mancata chiusura che avrebbe provocato una strage, una vera strage da coronavirus. Credo che nessuno che non sia un deprecabile negazionista o una persona priva di memoria possa dimenticare i camion militari che nel periodo più terribile della pandemia portavano via da Bergamo, anche fuori regione, centinaia di bare, di persone da cremare anche in altre regioni. L'inchiesta va avanti. L'inchiesta per fare chiarezza sulle responsabilità di questa mancata zona rossa dei focolai di Alzano e Nembro. E oggi, tra l'altro, il comitato Noi Denunceremo Verità e Giustizia per le vittime del Covid-19, costituito dai parenti delle vittime, ha consegnato alla Procura di Bergamo le prime 50 denunce relative alla gestione dell'emergenza coronavirus. Ma un'altra notizia importante è che dopo aver ascoltato la Procura di Bergamo, la versione dei vertici della Lombardia nei giorni scorsi, il presidente della regione Fontana e l'assessore assessore al welfare Gallera, venerdì vuole ascoltare, come persone informate sui fatti, anche il presidente del Consiglio Conte, la ministra dell'Interno Lamorgese e il ministro della Salute Speranza. E sta seguendo questa inchiesta la nostra Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, eccoci. Quindi la notizia è questa, anche se poi subito è partita la polemica politica con il centrodestra, in particolare la Lega, Salvini, che dice giustizia è fatta, nel senso che vengono ascoltati anche i vertici del governo, mentre poi dal PD dicono che cosa significa che giustizia è fatta, semplicemente perché vengono ascoltate persone informate sui fatti, in cui si tratta di scaricare la responsabilità a destra o a manca. Comunque atteniamoci ai fatti, Raffaella. Esatto, perché questa è, devo dire, proprio classica, diciamo, diatriba politica, che vista la situazione, visto il tema su cui poggia, forse, diciamo, avrebbe potrebbe essere destinata ad altri argomenti. Perché qui si tratta di fare chiarezza, come tu giustamente ricordavi, su quanto è successo nei giorni, tra i giorni più drammatici dell'emergenza coronavirus, nella zona che ha avuto il picco di letalità maggiore in tutta Italia. Quindi si tratta di fare chiarezza e dare risposta anche proprio a quei familiari delle vittime che oggi hanno cominciato a portare le loro denunce per capire che cosa è stato. Questo è uno dei filoni aperti dalla Procura di Bergamo, che punta a chiarire perché non fu creata una zona rossa nei primissimi giorni di marzo nella Val Seriana, tra Nembro, Alzano e gli altri comuni della zona. Di chi era la competenza, delle regioni o del governo? Ebbene, allora, il governatore della Lombardia e l'assessore Gallera hanno ripetuto che quella dovesse essere una scelta esclusivamente del governo. Il premier, che come hai ricordato sarà ascoltato venerdì e che ha detto di essere sicuro di aver agito in scienza e coscienza, già nei giorni scorsi aveva in realtà richiamato quella legge del 78 che consente anche alle regioni, per motivi di sanità pubblica, di prendere delle ordinanze urgenti. Cioè, che cosa vuol dire questo? Che norme alla mano, in realtà, sia il governo ovviamente che la regione avrebbero potuto chiudere quell'area, in realtà però nessuno l'ha fatto in quei giorni dei primi giorni di marzo, tra il 3 e il 7 marzo, prima che poi l'intera Lombardia fosse proclamata zona rossa, appunto tra il 7 e l'8 marzo. Sì. Per questo oggi è stato anche ascoltato il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, perché anche fu richiesto il parere dei tecnici, certo, in quei giorni, che avevano chiesto appunto di isolare la zona focolaio e di scegliere tra le due opzioni dell'intera area e, cioè, tutta o la Lombardia zona... Ma senti Raffaella, sentiamo anche due passaggi di Conte oggi fuori da Palazzo Chigi. I giornalisti cosa ha risposto a proposito del fatto che sarà ascoltato venerdì dalla Procura di Bergamo? Le cose le dirò al pubblico ministero, come persona informata sui fatti le dirò al pubblico ministero, non le posso anticipare a lei ovviamente. Riferirò doverosamente tutti i fatti di mia conoscenza. Non sono affatto preoccupato, non è un atteggiamento di arroganza, non è un atteggiamento di sicumera. Non commento le parole del procuratore che le ha citato, che sono state anticipate alla RAI, ci confronteremo venerdì. Riferirò tutti i fatti di cui sono a conoscenza. Ecco, questo proposito, questo passaggio, Raffaella, no? Perché nei giorni scorsi, dopo aver ascoltato la procuratrice di Bergamo, Fontana e Gallera, a una domanda dei giornalisti, mi pare, aveva risposto: secondo me, sì, da quello che apprendo, dovrebbe essere stata, questa doveva essere una decisione del governo. Allora la giornalista, i giornalisti oggi, esatto, a Conte hanno chiesto: ma che ne pensa di quello che ha detto la procuratrice? Dice: ci confronteremo in serenità venerdì, non anticipo nulla. Sì, la Cristina Rota, che è appunto la reggente della Procura di Bergamo, nei giorni scorsi, dopo aver ascoltato la versione data dal governatore Fontana e da Gallera, ha parlato, si è sbilanciata a dire che sembra che debba essere una scelta governativa. Ovviamente questo non significa, come poi è stato anche chiarito, che, diciamo, è già questa la scelta presa dall'inchiesta, ma queste sicuramente sono state le sue prime prime impressioni in quel momento. Torna a dire, è un'inchiesta complessa laddove le competenze normative si mescolano con le scelte politiche, con le date, diciamo, del calendario e con le analisi del contagio che e i suggerimenti che i tecnici offrivano al governo in quelle giornate. Bene. L'esperienza poi di questi mesi ci fa dire, ultima cosa, che in quel periodo lì effettivamente le prime zone rosse, quindi quella di Codogno, di Vo e poi appunto le altre, furono istituite dal governo. Successivamente ci sono state una serie di piccole zone rosse che sono state invece scelte dalle regioni un po' in tutta Italia. Grazie Raffaella Calandra, grazie Raffaella, poi ci aggiorneremo venerdì che cosa emergerà. Intanto l'ascoltatrice Adriana, che subito da Ginevra aveva consultato il dizionario Collins inglese-italiano per dire che cosa vuol dire stakeholder, a proposito del termine usato da Conte in un passaggio che abbiamo fatto sentire prima, significa persona, dice, che ha un interesse in una ditta, un'organizzazione o simile, insomma un azionista. A tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Resta ferma la nostra incessante richiesta di progressi significativi nelle indagini sul caso del barbaro omicidio di Giulio Regeni. Il governo e le istituzioni italiane continuano ad esigere la verità dalle autorità egiziane attraverso una reale, fattiva ed efficace cooperazione. Questo è stato l'intervento, la sottolineatura oggi del ministro degli esteri Di Maio a proposito delle polemiche per la decisione del governo italiano di vendere all'Egitto due fregate FREMM di Fincantieri, due navi da guerra, nonostante questo stallo da anni nelle indagini sulla morte del giovane ricercatore friulano Giulio Regeni, barbaramente torturato e ucciso al Cairo. E quindi da più parti, soprattutto da parte del centro-sinistra, del Partito Democratico, ma anche di Liberi Uguali, sono stati chiesti chiarimenti al ministro Di Maio e al governo su questa decisione, perché con in barba alla famiglia di Regeni, alla sua morte, a quello che è successo e al fatto che l'Egitto continua a far finta di voler chiarire, di voler far luce su questo omicidio, ma alla fine nulla è mai arrivato. Ne voglio parlare con Giuseppe Dentice, che è analista dell'ISPI per l'Osservatorio sul Medio Oriente. Buonasera Dentice. Buonasera. Ci dà un po' una sintesi ci inquadra i rapporti attuali tra Italia e Egitto, e le questioni di realpolitik, gli interessi commerciali, eccetera, per capire effettivamente come stanno le cose, quali sono le difficoltà nel porre qualche chiusura drastica. Allora, innanzitutto diciamo che la trattativa è ancora in corso, perché come ha fatto sapere lo stesso ministro Di Maio non sono ancora state vendute, non è stata completata. Le FREM esattamente non sono state vendute, fanno parte di un pacchetto molto più ampio di navi, elicotteri e dotazioni varie, diciamo, che dovrebbero essere vendute all'Egitto per un valore commerciale complessivo di oltre 10 miliardi, quindi un affare economico, ma da innumerevoli risvolti. Cosa significa questo? Significa che tendenzialmente noi stiamo vendendo delle dotazioni molto importanti a un nostro diretto concorrente nel Mediterraneo, perché ricordiamo che il Mediterraneo oggi è un'area sempre più strategica, crocevia di interessi vari, dal commercio internazionale all'energia. Quindi ai rapporti con la Libia, eccetera, eccetera. Esattamente. Quindi quello che riguarda questo tipo di accordo in realtà ha una rilevanza molto più ampia, che intacca anche il rapporto poi politico-commerciale tra Italia ed Egitto, che non possiamo nasconderci che sia un rapporto molto forte, che si basa su forti legami storicamente antichi, diciamo così. Quindi questo è solo un ennesimo tassello di un rapporto stabile che ha vissuto momenti anche alquanto difficili legati alla questione Regeni, che è rimasta risolta e probabilmente rimarrà ancora risolta, visto che non c'è la volontà da parte dell'Egitto di dare una piena diciamo collaborazione nelle indagini, soprattutto nella risoluzione del caso. Quindi diciamo che la questione in questo senso porta avanti un certo tipo di diplomazia parallela, indipendentemente da quello che è stato il caso Regeni, che ha influenzato le relazioni bilaterali. che quindi insomma al di là lei diceva diciamo diplomaticamente eufemisticamente non vuole dare piena collaborazione, mi sembra che finora l'Egitto sul caso Regeni proprio anzi abbia più che altro ulteriormente confuso le carte, no? Quindi No, volevo solo confermare, sì. Esatto, da parte dell'Egitto diciamo ci sono stati molti movimenti che hanno in realtà un po' come dire annacquato diverse situazioni senza dare poi in realtà una piena e reale collaborazione. Quindi adesso appunto per chiudere deve essere ancora completata questa trattativa, questa pensa che però a un certo punto queste due navi per mantenere molto presumibilmente le navi verranno vendute, questo è un dato di fatto ed è difficile che ciò non avvenga. Ripeto, al di là della questione Regeni, il discorso è un discorso molto più ampio che riveste diversi ambiti della politica estera italiana, nel Mediterraneo, i rapporti bilaterali con l'Egitto e questioni diciamo di interesse sovranazionale e internazionale, di politica veramente globale in questi termini. Quindi non possiamo far finta che anche altre questioni vadano avanti al di là dell'affare Regeni, che non per questo si voglia sminuire, è solo per fare diciamo un quadro quanto più completo possibile delle situazioni. Poi è innegabile il fatto che questa vendita di armi comunque non può far finta che in Egitto non ci siano problemi o comunque non sollevare questioni anche legittime su quelle che sono la condizione dei diritti umani nel paese, la difficile anche come dire tenuta sociale del paese di fronte alle questioni di carattere anche socio-sanitario legata alla questione Covid. Quindi diciamo che ci sono tanti riflessi, sì, che intaccano diverse dimensioni del rapporto. Chiaro. Grazie allora a Giuseppe Denti, ci ricordo analista dell'ISPI sull'osservatorio relativo al Medio Oriente. Grazie per il suo intervento. Grazie a voi, grazie. Grazie Denti. Ora invece con il nostro Dario Ricci ci occupiamo di sport perché è sempre in seguito alla pandemia ci sono questioni che riguardano per esempio l'annullamento del MotoGP, del Gran Premio del Mugello, e però invece ci sono delle notizie positive per la Coppa Italia. Tra l'altro abbiamo un audio di Speranza. Ciao Dario, sentiamo un attimo Speranza cosa ha detto oggi. Il 20 e il 21 giugno riprende il campionato di Serie A a porte chiuse, ma siamo già orientati ad autorizzare le semifinali e la finale di Coppa Italia, che si disputeranno rispettivamente il 12, il 13 e il 17 di giugno prossimi. Ecco Dario, buona notizia? Questo qui calcio maschile, sì. È un audio di qualche tempo fa, direi, perché no. Ormai era oggi, assolutamente... il ministro si è distratto, perché insomma le semifinali erano già state autorizzate da tempo, almeno da qualche giorno. Comunque, fortunatamente si riparte. Notizia del giorno, anche questa attesa, è stata l'annullamento del Gran Premio del Mugello del Moto Mondiale, era previsto, ma potremmo avere una compensazione, tutti i fan, tutti i tifosi, con un doppio appuntamento sulla pista di Misano a settembre. Addirittura si parla del secondo Gran Premio, perché come sai Roberta, quest'anno con questo calendario compresso si correrà sia in Formula 1 che in MotoGP, in alcuni casi anche due Gran Premi sullo stesso circuito. Come so, cioè certo. si cerca di arrivare a un numero congruo di gare disputate, e quindi si approfitta dei circuiti più che offrono maggiori garanzie. Quindi Misano addirittura nella seconda occasione a settembre potrebbe anche, speriamo, poter ospitare i tifosi almeno sulle tribune, non sulla zona Prato. Si tornerà a giocare chiaramente per la Coppa Italia domani, venerdì sera Juventus-Milan, e poi sabato Napoli-Inter, le gare di ritorno, con una particolarità: nel caso il risultato rimandasse a quelli che dovevano essere i tempi supplementari, si disputeranno direttamente i calci di rigore. Quindi faccio un esempio: se finisse 1-1 Juventus-Milan come risultato della gara d'andata, si andrebbe direttamente ai calci di rigore senza disputare i supplementari, per non diciamo mettere a troppo dura prova i calciatori fermi ormai da 3 mesi e più. Chiaro. Grazie. Sento sì, che c'è. Senti che, appunto, senti che l'opera. Ti sta inseguendo l'opera. Sì, infatti, che vincerò. Vincerò, è attinente, insomma, anche in questo. Vinceremo comunque tutti, contro il Covid nella Coppa Italia e da qualsiasi parte. Grazie, Dario Ricci. Ciao, Dario. Ci sentiamo alle 22.